Ben arrivati nella mansarda del Dottor Pirates. Parleremo di film horror. Escono in continuazione. Avrete notato che tendono a basarsi sempre sui soliti cliché, ma costano due soldi e li puoi fare con attori giovani sconosciuti. Magari anche senza attori. Diciamo che bastano giovani e sconosciuti. La cosa più importante è che queste pellicole garantiscono un ritorno economico ai produttori. Ok, allora proviamo a fare la trama di un ipotetico film horror in uscita nel 2017. Ma mi raccomando, una volta che avete finito di vedere questo video, schiacciate il link che trovate in descrizione e la recensione di un film horror pazzesco che si prende gioco volutamente di tutti gli stereotipi e li reinventa, quella casa nel bosco. Guardatelo. Incominciamo. Prendiamo un gruppo di persone, facciamo dei giovani ragazzi di circa 20 anni, non più di 6. Ci mettiamo lo sportivo, la sua fidanzata bionda che è disinibita, il nerd, la ragazza vergine con gli occhiali che è intelligente, e poi vedete voi un paio di altri ragazzi, il cannaiolo, ok, e poi il tizio che fa sempre gli scherzi, magari sovrappeso. Da notare che se c'è un ragazzo nero, sarà il classico tipo che cerca di aiutare tutti e morirà per primo, o comunque tra i primi. Fatto. Allora, questa simpatica compagnia di ragazzi decide di andare a fare una scampagnata, nonostante siano assemblati malissimo e a stento riusciamo a credere che possano essere amici, ma procediamo. Andranno nel luogo prestabilito in macchina, durante il tragitto in prossimità dell'arrivo incontreranno una persona sciroccata, il classico scemo del villaggio, che parlerà di sventure incredibili, luoghi maledetti, guarda caso quei luoghi dove sono diretti i ragazzi, e via dicendo. Ovviamente verrà ignorato e liquidato come folle. Ok, arriviamo dunque alla baita casa di legno, completamente isolata in un luogo bruttissimo. Non c'è niente, nulla, solo alberi e questa casa lasciata a se stessa che fa schifo. Qualcuno si lamenta, e ci credo, ma mio cugino mi ha detto che era un posto bellissimo, mi sentirà quando torno a casa. Ma nulla è veramente importante, quel che conta è che sono isolati dal resto del mondo. Ormai devono passarci lì la notte. Il tizio che fa sempre gli scherzi comincia a raccontare una storia, scegliete voi, una storia del luogo. E parlerà di un pazzo maniaco che ha ucciso dei Boy Scout 30 anni prima, oppure di un cimitero dove si facevano reti occulti o di streghe bruciate vive. Le ragazze avranno paura, i ragazzi se la ridono. Fin quando la svolta, ovvero quel momento in cui si ficcano nei guai e attivano l'orrore. Abbiamo diverse opzioni, possono trovare nella casa un vecchio libro satanico, leggerlo e scatenare l'inferno. Possono anche non fare nulla e aspettare il manifestarsi del maniaco. Possono infilarsi in una botola angusta da cui sentono rumori strani, e certo, e te ci vai dentro, fisso. Possono anche accettare l'invito da parte di alcune persone del posto, totalmente raccomandabili. Comunque, ormai sono fregati, qualcuno muore, ma attenzione, non la ragazza vergine con gli occhiali, perché lei è l'eroina, ed inoltre lo sportivo e la ragazza bionda devono fare sesso, per forza, e possibilmente morire insieme. Quando realizzano di essere in pericolo, scatta il panico, ma i telefonini non prendono, e sì, perché siete in culo al mondo, e i telefonini non prendono. E la macchina? Due opzioni per la macchina, o non parte, oppure parte, ma sapete quell'unico ponte di legno che avete attraversato prima di giungere alla casa? Sì, è crollato. Dovete stare lì e investigare, seriamente, c'è un pazzo maniaco, un mostro, che si aggira per uccidervi, e voi, se sentite un rumore o qualcosa di strano, andate ad investigare? Magari avete perso un paio di vostri amici, sentite dei rumori in una direzione, li chiamate, nessuno risponde, ma voi avanzate pian piano verso quella direzione. Ma se i vostri amici non rispondono è perché sono morti, e lì c'è il mostro maniaco ad aspettarvi. Ma si può fare anche di più, del tipo dividersi in gruppi in modo deliberato per farsi uccidere meglio. Seguiranno azioni più o meno stupide e scelte più o meno obbligate. Se devi scappare, ti infilerai in un'oscura e fitta foresta. Se urli, nessuno ti sentirà mai. Qualcuno arriverà alle spalle di una ragazza spaventata e senza fare rumore le metterà una mano sulla spalla per attirare la sua attenzione, facendola così saltare dalla paura. L'eroina, che è sempre stata una ragazza normale, anche un po' insicura, troverà risorse inaspettate e una genialità degna di MacGyver. Il ragazzo più duro di tutti non si salverà mai. Le torce non funzionano. La musica. Quando sta per succedere qualcosa di brutto, la musica cambia e diventa tesa. Se solo i personaggi dei film potessero ascoltare la musica, saprebbero in anticipo che sta per arrivare qualcosa di brutto. E poi nebbia. Nebbia innaturale. Nebbia ovunque. Riguardo le forze dell'ordine, potrebbero per un qualche miracolo farsi vive. Ma attenzione, ci sono due opzioni. O crepano subito in modo improvviso, oppure sono collusi con il maniaco, per cui siete sempre fregati. Alla fine sono tutti morti, tranne la ragazza vergine con gli occhiali, che poi, senza occhiali, è un po' svestita e più bella di quanto si potesse immaginare. La lotta con il maniaco mostro bavoso è impari, lei correrà per di fiato, inciamperà più volte e verrà quasi presa dall'entità mostruosa. Ma vuoi per un po' di fortuna e vuoi per una botta di genialità, riuscirà ad utilizzare alcuni elementi ambientali a suo vantaggio, uscendo così vincitrice. Possono essere dei materiali infiammabili, degli ingranaggi tritatutto, dei ganci, decidete voi cosa. Finalmente salva, il maniaco mostro è morto. Sì, come no, l'inquadratura va sul corpo e si muove. Wow, chi se lo aspettava? La stessa cosa si può fare con altri film basati sulle possessioni demoniache, film che si basano sui fantasmi e così via. Avranno ovviamente stereotipi tipici del sottogenere, ma di fatto saprete sempre cosa sta per accadere e non verrete mai sorpresi. Certo, tutti i generi hanno i loro punti fermi, ma i film dell'orrore, quelli mainstream se non altro, non fanno più paura e non scioccano più, e questo è il vero problema. Chris Tuckman, un noto critico, ha individuato tre motivi perché accade ciò. I jump scares. Vi è un abuso di jump scare. Va bene una volta, due volte, tre volte, ma non puoi basare gran parte del film sui classici spaventi improvvisi. Musica, silenzio, buh! Mismarketing. Spesso i trailer sono fuorvianti e tendono a mostrare il film per quello che non è, creando aspettative non realizzabili. E poi incassano bene, perché costano poco. Magari non faranno soldi a palate, ma superano di gran lunga i costi di produzione, per cui è conveniente per i produttori fare film del genere. In definitiva, secondo Chris, il grande pubblico ha dimenticato che cosa è un buon film horror. Tutto molto interessante, penso anche condivisibile, ma il futuro cosa ci riserverà? Nulla di buono, temo. Ma non importa, l'importante è che se un pazzo maniaco o un mostro darà la caccia a voi e ai vostri amici, sappiate cosa fare e soprattutto cosa non fare. Mi raccomando, sempre in gamba.